Lorenzo Anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo. 30 agosto. Infelice. Non sei forse un pazzo? Non inganni forse te stesso? Che senso ha questa passione furiosa, sconfinata? Non ho più altre preghiere che per lei. Alla mia immaginazione non appare altra figura che la sua. Solo in rapporto a lei riesco a vedere quanto mi circonda. E questo mi procura tante ore felici finché non mi tocca lasciarla di nuovo. Ah, Wilhelm, a cosa mi spinge spesso il cuore? Quando sono stato con lei per 2 o 3 ore beandomi della sua figura, del suo contegno, degli accenti divini delle sue parole, poi a poco tutti i sensi mi si chiudono. Mi si fa buio davanti agli occhi, a stento riesco ancora a udire e qualcosa mi afferra alla gola a tradimento, come un assassino. Allora il mio cuore con battiti selvaggi tenta di ridare fiato ai sensi oppressi e così non fa altro che accrescerne la confusione. Wilhelm, spesso non so neppure se sono al mondo. E a volte, se la malinconia non prende il sopravvento e Lotte non mi concede la misera consolazione di sfogare l'angoscia bagnando di lacrime le sue mani, devo andarmene, correre fuori e vagare a lungo per i campi. E il mio conforto è arrampicarmi su un monte scosceso, aprirmi un sentiero attraverso una selva impraticabile, attraverso gli arbusti che mi feriscono, attraverso le spine che mi graffiano. Allora mi sento un po' meglio, solo un po'. E a volte mi sdraio lungo il cammino, vinto dalla stanchezza e dalla sete, a volte a notte fonda, quando la luna piena sta alta sopra di me. Mi siedo nella foresta deserta, su un albero contorto, per dare qualche sollievo ai miei piedi piegati. E poi, estenuato da quella pace, mi addormento nel chiarore dell'alba. Oh, Wilhelm, la solitaria dimora di una cella, il cilicio e la centura di spine sarebbero un refrigerio di cui la mia anima è assetata. Addio. Per questa infelicità non vedo altra fine se non la tomba. 3 settembre. Devo partire, ti ringrazio, Wilhelm, di aver reso salda la mia vacillante risoluzione. Già da 2 settimane accarezzo il proposito di allontanarmi da lei. Devo partire. È di nuovo in città, presso un'amica. E Albert... devo partire. 10 settembre. Che notte, Wilhelm. Ora posso sopportare qualsiasi cosa. Non la rivedrò. Carissimo. Non poter gettarti le braccia al collo, non poter esprimerti con 1000 lacrime e trasporti i sentimenti che mi si affollano in cuore. Sto chiuso qui dentro e boccheggio, cerco di calmarmi, aspetto il mattino e i cavalli da me ordinati saranno alla mia porta al levare del sole. Lei dorme tranquilla e non sa che non mi vedrà mai più. Mi sono staccato da lei. Sono stato abbastanza forte da non tradire il mio proposito in un colloquio di 2 ore. E, Dio mio, quale colloquio? Albert mi aveva promesso di venire in giardino con Lotte subito dopo cena. Io attendevo sulla terrazza, sotto gli alti castagni, e seguivo con lo sguardo il sole che per me tramontava l'ultima volta sopra la valle ridente, sopra il dolce fiume. Ero stato così spesso lì con lei a contemplare quello stesso magnifico spettacolo e ora passeggiavo su e giù per quel viale a me tanto caro. Quante volte un'oscura simpatia mi aveva trattenuto lì, prima ancora che conoscessi Lotte. E come ci rallegrammo quando all'inizio della nostra conoscenza scoprimmo la comune inclinazione per quel luogo, in verità uno dei più romantici prodotti dell'arte che io abbia mai visto. Prima di tutto, hai l'ampia veduta di tra i castagni. Ricordo, mi pare di avertene già scritto diffusamente, di come alla fine ci si trovi rinchiusi fra alte pareti di faggi e mentre si attraversa il boschetto attiguo il viale divenga sempre più buio finché da ultimo si sbocca in una piazzuola recintata intorno alla quale aleggiano tutti i brividi della solitudine. Provo ancora il senso di mistero che mi assalì quando vi misi piede la prima volta in un tardo meriggio. Confusamente presagivo quale teatro di felicità e di dolore sarebbe diventata. Ero immerso da una mezz'ora nel pensiero dolce e struggente dell'addio e del rivedersi quando li udii salire sulla terrazza. Corsi loro incontro. Con un brivido presi la mano di Lotte e la baciai. Appena fummo giunti in cima, da dietro la collina ammantata di cespugli, sorse la luna. Discorrevamo del più e del meno e senza accorgercene ci avvicinammo a quel buio recesso. Lotte vi entrò e sedette, e Albert le si mise da un lato e io dall'altro. Ma la mia inquietudine non mi consentì di restare a lungo seduto. Mi alzai, rimasi in piedi di fronte a lei, camminai avanti e indietro, tornai a sedermi. Ero in uno stato spaventoso. Lei richiamò la nostra attenzione sul bell'effetto prodotto dal chiaro di luna, che dal margine della parete di faggi illuminava tutta la terrazza davanti a noi. Uno spettacolo stupendo, reso ancor più impressionante dalla tenebra da cui eravamo circondati. Restammo in silenzio e dopo qualche tempo lei cominciò. Non passeggio mai al chiaro di luna senza che mi tornino alla memoria i miei morti, senza che mi assalga il presagio della morte e della vita eterna. Là noi saremo, continuò, e la sua voce vibrava del più nobile sentimento. Ma, Werther, potremo ritrovarci, riconoscerci? Lei che cosa crede? Cosa ne dice? Lotte, risposi tenendole la mano mentre gli occhi mi si riempivano di lacrime. Noi ci rivedremo. Qui e lassù ci rivedremo. Non riuscii ad aggiungere altro. Proprio questo, Willem, doveva domandarmi quando avevo nel cuore quell'addio angoscioso. E i cari estinti? Continuò. Sanno di noi. Sentono se stiamo bene e che ci ricordiamo di loro con caldo affetto. La figura di mia madre mi è sempre vicina quando nel silenzio della sera siedo fra i suoi bambini, fra i miei bambini, ed essi sono radunati intorno a me come un tempo lo erano intorno a lei. Allora levo gli occhi verso il cielo con lacrime struggenti e desidero che ella possa guardare giù per un attimo e vedere come mantengo la parola datale nell'ora della morte, di essere la madre dei suoi figli. Con quale fervore esclamo: perdonami, carissima, se non sono per loro quello che fosti tu. Eppure io faccio tutto ciò che posso, eppure essi sono vestiti, nutriti e quel che più conta, accuditi e amati. Se tu, anima santa, vedessi la nostra armonia, celebreresti con la gratitudine più calorosa la gloria di quel Dio che con le ultime lacrime, le più amare, pregasti per la prosperità dei tuoi figli. Questo disse Willem. Ma chi può ripetere ciò che disse? Come possono freddi, morti caratteri rappresentare quella divina fioritura dello spirito? Albert la interruppe con dolcezza. Tutto ciò la sconvolge troppo, cara Lotte. So che la sua anima è molto affezionata a queste idee, ma la prego. Oh, Albert, rispose lei, lo so. Neppure tu hai dimenticato le sere in cui sedevamo insieme al piccolo tavolino rotondo, quando papà era in viaggio e avevamo mandato a dormire i bambini. Tu avevi spesso con te un buon libro, ma riuscivi così di rado a leggere. La frequentazione di quell'anima nobile non era forse meglio di ogni altra cosa? Quella donna bella, dolce, allegra e sempre attiva. Dio conosce le lacrime con le quali nel mio letto tante volte lo supplicai di rendermi uguale a lei. Lotte, esclamai inginocchiandomi, prendendole la mano e bagnandola con mille lacrime. Lotte, la benedizione di Dio è su di te e lo spirito di tua madre. Se l'avesse conosciuta, disse stringendo la mia mano, era degna di essere conosciuta da lei. Credetti di venir meno. Mai erano state pronunciate sul mio conto parole più grandi e generose. E Lotte proseguì: e questa donna doveva morire nel fiore degli anni, quando il figlio minore non aveva ancora compiuto 6 mesi. La malattia non durò a lungo. Lei era tranquilla, rassegnata. Solo per i suoi bambini provava pena, specie per il più piccolo. Quando sentì arrivare la fine, mi disse: portatemeli qui. E io li feci entrare. I piccoli, che non sapevano nulla, e i più grandi, che erano sconvolti, stavano in piedi intorno al letto. E lei sollevò la mano per benedirli e li baciò l'uno dopo l'altro e poi li mandò via e mi disse: sii la loro madre. Io le diedi la mano in segno di promessa. Non ti assumi un impegno da poco, figlia mia, disse lei. Il cuore di una madre e l'occhio di una madre. Ho sentito spesso dalle tue lacrime di gratitudine che tu intuisci cosa significa. Abbi tutto questo per i tuoi fratelli e per tuo padre la fedeltà e l'obbedienza di una sposa. Tu dovrai consolarlo. chiese di lui. Era uscito per nasconderci la sofferenza intollerabile che provava, lo strazio che lo dilaniava. Tu, Albert, eri nella camera. Lei sentì qualcuno camminare e domandò chi fosse e ti chiamò perché ti avvicinassi. E come ci guardava, te e me, con sguardo fiducioso e tranquillo, pensando che saremmo stati felici, che insieme saremmo stati felici. Albert le gettò le braccia al collo, la strinse a sé e gridò: «Lo siamo! Lo saremo!» Il pacato Albert aveva perso completamente il dominio di sé e io non sapevo più dove fossi. «Werther», riprese lei, «e questa donna doveva morire? Mio Dio, quando penso come ci si lascia portar via ciò che si ha di più caro al mondo, e nessuno lo sente tanto intensamente quanto i bambini. Ancora per molto tempo si lamentarono che gli uomini neri avevano portato via la mamma». Si alzò e io tornai in me e mi riscossi. Restavo seduto tenendole la mano. «Andiamo», disse lei, «è ora». Voleva ritrarre la mano, ma io la trattenni più saldamente. «Ci rivedremo», esclamai. «Ci troveremo. Sotto qualsiasi forma ci riconosceremo». «Io vado», continuai. «Vado, di mia volontà. Eppure, se dovessi dire per sempre, non potrei sopportarlo. Addio, Lotte. Addio. Addio, Albert. Ci rivedremo». «Domani, suppongo», rispose lei in tono scherzoso. Pensai all'indomani. Ah, ella non sapeva mentre sottraeva la sua mano alla mia. Si allontanarono per il viale. Io rimasi e li seguii con lo sguardo al chiarore della luna. Poi mi gettai a terra piangendo senza ritegno. Poi balzai in piedi e corsi sulla terrazza e vidi ancora laggiù, all'ombra degli alti tigli, la sua veste bianca che risplendeva avvicinandosi alla porta del giardino. Tesi le braccia e sparì. Ottobre 1771. Siamo arrivati qui ieri. L'ambasciatore è indisposto e dunque rimarrà in casa per alcuni giorni. Se solo non fosse così poco cordiale, tutto andrebbe bene. Mi rendo conto sempre più che il destino mi ha riservato dure prove. Ma coraggio, cuor contento, il cielo aiuta. Cuor contento. Mi fa ridere che una simile espressione mi venga alla penna. Certo, un briciolo di ottimismo mi trasformerebbe nell'uomo più felice che vi sia sotto il sole. Come? Quando altri, con quel poco di abilità e di talento che possiedono, vanno in giro sotto i miei occhi a fare i gradassi, appagati nella propria vanità, io dispero delle mie forze, delle mie doti. Buon Dio, tu che mi donasti tutto questo, perché non te ne sei tenuto la metà e non mi hai dato invece fiducia in me stesso e capacità di adattarmi? Pazienza, pazienza. Le cose miglioreranno. Infatti, mio caro, ti dichiaro formalmente che hai ragione. Da quando mi mandano fra la gente e vedo ciò che essa fa e come lo fa, sono in rapporti assai più cordiali con me stesso. Senza dubbio, poiché è nella nostra indole paragonare ogni cosa con noi e noi con ogni cosa. La gioia e l'infelicità dipendono dagli oggetti con cui ci confrontiamo. E nulla è più pericoloso della solitudine. La nostra immaginazione, spinta dalla propria natura a guardare in alto, nutrita delle immagini fantastiche della poesia, si dipinge una gerarchia ascendente di esseri, nella quale noi occupiamo il gradino più basso e dove tutti gli altri ci appaiono più nobili e più perfetti di noi. Ed è assolutamente naturale che questo avvenga. Sentiamo così spesso le nostre manchevolezze e proprio quanto ci manca ci sembra spesso che lo possieda un altro, al quale poi attribuiamo per giunta tutte le nostre doti e vi aggiungiamo ancora un ideale compiacimento di sé. E così ecco pronto l'individuo perfetto, la nostra stessa creatura. D'altra parte, se nonostante tutta la debolezza e lo scontento continuiamo a lavorare, scopriamo assai spesso di essere giunti più lontano, ciondolando e barcamenandoci, di quanto non siano giunti gli altri navigando a vele spiegate. E allora sì, si acquista una giusta coscienza di se stessi, quando si arriva a essere pari agli altri o addirittura a superarli. 26 novembre 1771. Incomincio a trovarmi discretamente in questo posto. L'aspetto più positivo è che c'è abbastanza da fare. E poi la varietà di persone e di nuove immagini offre al mio spirito un movimentato spettacolo. Ho conosciuto il Conte C, un uomo che devo ammirare ogni giorno di più. Una mente grande e aperta in cui la vastità della visione non genera freddezza e nel cui contegno risalta sempre tanta sensibilità per l'amicizia e per l'amore. Mi prese in simpatia quando svolsi presso di lui un incarico d'affari e fin dalle prime parole si rese conto che ci intendavamo, che con me poteva parlare come non avrebbe potuto parlare con chiunque. Per parte mia, non saprei lodare a sufficienza l'atteggiamento schietto che egli tiene con me. Non esiste al mondo gioia così intensa e genuina come il vedere una grande anima schiudersi a qualcuno. 24 dicembre 1771. L'ambasciatore mi procura molte noie, come avevo previsto. È lo sciocco più meticoloso che si possa immaginare. Posa piano e pignolo come una vecchia zia. Un uomo che non è mai soddisfatto di se stesso e al quale perciò nessuno può fare cosa gradita. A me piace lavorare alla svelta, come viene viene, ma lui è capace di restituirmi uno scritto e di dirmi «Va bene, però lo riveda, si può sempre trovare un'espressione migliore, un termine più puro». E allora vorrei che il diavolo mi pigliasse. E neppure la più piccola congiunzione può essere tralasciata. Ed egli è nemico giurato delle inversioni, che a me sfuggono spesso. Se non si compone il periodo secondo la melodia tradizionale, lui non ci capisce niente. È un tormento avere a che fare con una persona del genere.